Direi che sono le 8 del mattino, inizia la seconda ora di PBR, la nostra colazione. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. Ecco il testo della nostra sigla. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. No, perché ho iniziato proprio l'incipit di stamane è stata una mail di una radioascoltatrice che voleva il testo della sigla di Pane, burro e rock. E questo qui, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Roba molto semplice. Buongiorno dall'Ariele, Spadino, Trombetta, Fricantoni, la redazione Isacco Rizzi e tutti voi. È argomento del che ci volete fare? Stiamo pensando al treno, non si pensa a nient'altro, ovvero al giorno, questa domenica, del primo raduno surrealista di Pane, burro e rock and roll. Tranquillizzo Sick che scrive via SMS: ok ragazzi, però ho bisogno di un aiuto. L'ora e il luogo del raduno, perché non ho ancora capito bene. No, non l'abbiamo ancora detto, sì, che questo è il problema. Non l'abbiamo ancora deciso. È un raduno surrealista. Giuro che entro oggi lo decidiamo, anche perché sennò poi non sappiamo dove sbattere la testa. Intanto c'è le Ligure, che è quella roba lì, Senza offesa, dico, cioè, non è Milano, c'è le Ligure. Che scopro tra l'altro essere comune della pace, me lo scrive Luca da Genova, che è uno di quei radioascoltatori che è andato a fare un sopralluogo. Che qualcuno inizia anche a fare i sopralluoghi a Celle Ligure, così per vedere com'è. Luca scrive: ieri sono passato da Celle in moto, la mettiamo a ferro e fuoco, altro che comune per la pace. No, oh, non scherziamo, Mentre, visto che si aggiungono nuovi amici nella seconda ora, il problema da risolvere oggi è il fischio del treno. Qualcuno di voi ci può aiutare? Abbiamo bisogno del fischio, quella roba lì, per il treno, per il Rock FM Express. Così è stato nominato. Intanto diamo inizio musicale al secondo giro di Pane, burro e rock and roll con l'aiuto della redazione di Easy Rider, Mox Scristadoro. Oggi, ragazzi, è dura. Ci fa iniziare bene con della buona musica italiana quest'oggi. 1999. Si chiamano Ritmo Tribale. E questa è la bellissima musica. Ben sintonizzati su Rock FM. Pane, burro e rock and roll nella seconda ora. Oggi inizia così. Pagherò per quello. Bella Mox. Ma soprattutto bella ritmo tribale. Così, piovuti tra l'usco e il brusco stamattina. Musica, ritmo tribale, 1999, selezionati per noi dagli amici di Easy Rider. La grande musica di Rock FM, anche quest'oggi, da mezzogiorno alle 2 sulle nostre frequenze. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. Non aver paura di parlare con noi. Così. Fare il DJ a una radio certamente non è un lavoro difficile, ce n'è altri di lavori difficili. Ma sa tutti i lavori, secondo me, dottor DJ Ariel. Sì, dottore, mi chiami. Dottor Ariel, sì. Tutti i lavori hanno, certo, anzi, certo, una loro percentuale di pericolosità. Come gli stuntmen. Stuntmen, sì, è un lavoro difficile, oppure i pompieri, pensi ai pompieri. Sì, sì, sì, pompieri, certo. Palazzi in fiamme. Esatto, treni rovesciati, cataclismi. E a un pompiere può accadere veramente di tutto. La redazione ci segnala l'ansia in ansia di quest'oggi. Mi lancia la sigla? Volentieri. Sigla. Pompieri aggrediti da un ninja, lo abbattono con gli idranti. Esatto, è successo ad alcuni vigili del fuoco, ad alcuni pompieri di Dundalk in Irlanda, che sono stati aggrediti da un ninja mentre erano impegnati a spegnere un incendio. L'uomo armato di katana, spada tipicamente usata dai samurai, è saltato fuori dall'oscurità mentre i pompieri tentavano di domare le fiamme che divoravano un'auto. stando a quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, i vigili sarebbero comunque riusciti in breve tempo a domare anche la furia dell'uomo. Compreso, si trattava di un folle, lo hanno letteralmente abbattuto sparandogli contro dei potenti getti d'acqua con gli idranti. E prima che il guerriero dell'ombra, il ninja, desistesse, i pompieri lo hanno dovuto anche annacquare diverse volte. Una volta presa l'affilatissima arma, il ninja è stato bloccato da alcune persone fermatesi per osservare l'incredibile scena. Poco prima dell'arrivo della polizia, il misterioso individuo, ancora mascherato, è riuscito però a dileguarsi. Quindi attenzione, ancora... a piede libero a il piede. Ninja irlandese. Che bello fare il ninja però. Quindi se capitate a Dundalk in Irlanda, sappiate che vi potete imbattere in un misterioso ninja. Occhio alle katane, che in testa fanno male. Occhio al ninja. Ramones in versione romantica di Baby I Love You. Lunedì 28 gennaio 2008, l'anno della svolta, sono le 8:15. Un saluto agli amici del gruppo d'ascolto Circonvallazione, in particolare Graziano, che si pone una di quelle domande che non ci si deve porre. Graziano, pensa ad altro. Perché il lunedì sembra che c'è il doppio del casino? I segreti di Milano. Un abbraccio a tutti. Circonvalla Man. Un abbraccio a voi in circonvallazione, ma soprattutto un abbraccio ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici stretti nella morsa del precariato. Prendete esempio dal nostro Roberto Fricantoni, ci si arrabatta, qualcosa si può fare. Se Fric riesce a fare il tecnico dei computer, si può fare un po' tutto. E allora, signor Antoni, benvenuto nell'azienda Duse Electronic Corporation. Che mansione sa svolgere? Ma non per essere immodesto, signor direttore, ma so fare un po' di tutto. Quindi lei è esperto di computer? Ma sono un tecnico professionista, un vero esperto, è il mio pane quotidiano. E allora è assunto, buon lavoro. La ringrazio, direttore, non se ne pentirà. Buongiorno, sono Roberto Fricantoni della Duse Electronics Corporation. Come posso aiutarla? Ha inserito la spina? Ha provato a riaccendere il computer? Ah, attendo un attimo per favore, avevo un promemoria. Il chip della motherboard è configurato correttamente con l'hub del bus della RAM? Grazie, arrivederci. Ci cascano sempre quando si parla di motherboard, non capiscono più niente. Think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. Wild Thing. Abbiamo vari personaggi che ci chiamano, o meglio che chiamiamo noi da Pane, Burro e Rock and Roll. Ce n'era una qualche tempo fa che, se non ricordo male, ha smesso di fumare grazie a Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiama Marina, arriva da Genova e fu lei a costringerci a inventarci qualcosa per un raduno in terra ligure, quindi non può mancare il 3 a Celle. Marina, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao. Senti, una volta, cioè fino a qualche settimana fa, mi scrivevano via SMS: ma Marina ha smesso ancora di fumare o ha ripreso? Marina ha smesso di fumare, lo può dire? Da settimana scorsa non mi chiedono più questo, chiedono: ma Marina ci sarà a Celle Ligure? Ma guardate, sui gomiti ci vengo, se avessi qualcosa che mi blocca le gambe io arrivo sui gomiti, perché lo sto dicendo a tutti. Lo sto dicendo a tutti, e quindi niente mi E allora male. La seconda domanda è: ma verrà da cowboy o verrà da indiana? Ecco, allora, io ho pensato di fare il cowboy, perché fare l'indiana sarà un po' troppo facile. È troppo facile, hai ragione. È troppo facile. Devo fare il cowboy, insomma. Poi pensavo di portarmi dietro un prigioniero. Buona, questa non è male. Questa non è male. Perché c'ho un amico che voglio invitare. I classici amici di Marina. Sì, me li ricordo, Marina. Gli amici di Marina. Sì, è uno giorno gli ho detto tu, perché c'è un mio amico che farà l'indiana. Ok. E poi volevo portarmi dietro anche questo qua, che nel frattempo l'assenza di nicotina mi ha fatto sbarellare per questo qua. Sì. Quindi mi interessa per tanti versi, allora me lo voglio portare dietro, capito? Come prigioniero. Come prigioniero. Così capisci anche subito l'andazzo della situazione, perché potrebbe. Ma niente, comunque. Dove ci dice non fare, in un locale? Non fare queste domande. No, niente locale, ci troviamo per strada. Ah, bellissimo. Però non sappiamo ancora dove. Dopo sento Mario, giuro che domani lo dico. Benissimo. Domani lo diciamo. Potrebbe essere verso le 3, prima dell'inizio della sfilata, ci troviamo dove parte il carro nostro. Perfetto. Una roba così. Poi è bellissima questa cosa. Tu tra l'altro la patente ce l'hai già, perché te la sei presa alla FLOG. Io sono patentata, okay. Perché ero alla FLOG e mi hai dato la patente, sì. Ti sembra giusto aver deciso questa cosa di dare honoris causa la patente a chi verrà vestito da cowboy indiano? Secondo me sì, dai, perché comunque siamo tutti molto affezionati a voi. Siamo... Secondo me è un gesto da rocker quello. Poi è molto rocker, sì. È come una medaglia guadagnata, cioè sul campo, capito? Una medaglia al valore. Ma una è roba vero, così. Ma guarda che vi seguiamo tutti. Poi penso che noi siamo tutti un po' particolari, non possiamo essere come il resto. Siamo un po' particolari. Noi siamo tutti sicuri, io non conosco proprio, siamo tutti senz'altro un po' particolari. Siamo dei ragazzi speciali, Maria. Dei ragazzi sì, e delle ragazze speciali. Senti, Rock FM non può essere tanto. L'importante è che tu continui a non fumarmi, così sei la prima radioascoltatrice che smette di fumare grazie a pane, burro e rock and roll. È verissimo. E poi ti dico che nei momenti di cedimento io pensavo, no, perché non posso, tra le altre cose che pensavo, Benin, che figura di merda si vada a fare con quelli di Rock FM se mi telefonano. Tra l'altro volevo chiederti il permesso, vorrei metterti nel mio curriculum. Cioè, mentre faccio il curriculum scrivo anche, ho fatto smettere di fumare Marina da Genova. Sì, potrei proporre anche un metodo per non fumare, per fumatori che volessero smettere. Sì, guarda, secondo me bisogna, vabbè, a parte la forza di volontà, però bisogna anche essere preparati a soffrire tanto, cioè essere, perché ti sta male, però non è un male che venite, io sono qua che parlo con voi. È un male che porta al bene. Esatto, io adesso mi sento leggermente meglio. Sto facendo le scale invece che prendere l'ascensore. Brava. Perché sto misurandomi Un pochettino. Ti stai inchiattendo? Ti stai inchiattendo? No. Perché mi sono messa. Perché ricordiamo che sei normoforme tu. Avevi io detto sono normoforme. Sì, sono. Aspetta, no, normoforme. Normotipo. Normotipo. Io sono un normotipo. Vabbè, le chiacchierate tra di noi di pane, burro e rock and roll. Niente, ci vediamo il 3 allora. Resta il in contatto. Il 3 Celle Ligure. Domani sta a sentire che dite come facciamo a riconoscere. Sì, no, lo facciamo di sicuro. Beh, io a te ti riconosco, Ariela. Ti vedessi in mezzo a un sacco di gente, io a te ti riconosco. Che tenera. Perché mi sia rimasto troppo presto. Ci vediamo domenica, ciao Marina. Ciao ragazzi, buona giornata. Beh, non poteva mancare Marina già adesso. Era stata lei che si lamentava che non ci trovavamo mai in Liguria. Comunque ha ragione, bisogna fare le cose un po' così. Dovrei farla a scuola. Frick non ha ancora deciso cosa fare. Spadino sì. Cadere di tutto in questa trasmissione radiofonica, ma a quest'ora test attitudinale per tutti. Crolli il mondo, ma noi vogliamo testare il nostro pubblico. Come? Ma con una domanda, tre possibili risposte, voi fate la vostra scelta, se la azzeccate, due punti per la vostra esatto. Patente davvero rocker. Grazie. È il momento del quiz. Sì, esatto, il quiz, ma non il solito indovinello banale no, delle nostre no, il test attitudinale. Radio ufficiali no, o delle esatto. TV. Esatto, il test attitudinale. John Lord fece A. Per primo sfasciò la sua tastiera rompendola, spaccandola contro il pavimento di un locale in Australia nel 1965. Oppure John Lord fece B. Per primo collegò la sua tastiera ad un amplificatore per chitarra. Oppure infine John Lord fece C. Per primo diede alle fiamme una tastiera Hammond. Cosa fece John Lord, il tastierista dei Deep Purple, prima di tutti? Restate con noi. Sì, ragionate, riflettete, la soluzione ve la diamo tra poco, la risposta giusta a poco dopo.